Venerdì 11 dicembre, serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Contro ogni carcere, giorno dopo giorno. Dalle 18.30, presentazione della nuova Scarceranda 2016. Dalle 20.30, cena evasiva. E dalle 22.30, i concerti con Karakuri, X Cenere X. Ah no, non si legge da X? Si legge, Street End. E Leviathan, Rattenkönig. Il tutto condito da DJ set di Lady Crime. Ingresso a sostegno di Radio Onda Rossa, 5 euro. Al CSOA Forte Prenestino, via Federico Del Pino, a Centocelle. Sweet dreams till service fine you. Sweet dreams till service fine you.